Massenzio dichiara battaglia contria, l'ingiba beinit namadish biberia. Letnil alis fida min arshay domin, illa alis erchtun attakahin. Rabbi, in certo roch rabbi.